Sono 3.420 i bambini stranieri che nel 2007 sono stati adottati da coppie italiane. Un parto lungo, i loro genitori hanno dovuto aspettare in media 2 anni per abbracciarli. Un parto costoso, si possono spendere infatti fino a 20.000 euro. E a volte un parto impossibile, restano chiuse, ad esempio, le frontiere con Bielorussia e Romania. La vicepresidente della Commissione Adozioni Internazionali, Daniela Bacchetta. Romania ormai ha chiuso decisamente, anche che fosse il paese dal quale venivano tantissimi bambini, ormai dal 2003-2004 ha chiuso radicalmente. E per non parlare della Bielorussia, che è diventato oramai un luogo di sofferenza più per le famiglie che ospitano bambini nei famosi soggiorni di risanamento, però poi non riescono a realizzare le adozioni ormai da anni perché c'è una chiusura totale. Marco Griffini, presidente dell'associazione Amici dei Bambini. È scesa un'omertà sulla Romania che non le dico. Ormai la Romania è entrata in Europa, non ha più senso parlare di adozione internazionale. È una questione europea, questa poi l'assurdo, no? Cioè una nazione che entra in Europa e dice non voglio che i miei minori vadano all'estero, come se l'Europa fosse l'estero. Poi c'è il capitolo Cina, che ha aperto da poco le frontiere all'Italia. Si parla di 66.000 bambini orfani in Cina. Tuttavia, secondo alcune associazioni, tra cui le ACLI, concludere adozioni con la Cina significa essere complici delle politiche demografiche del paese. Per questo hanno chiesto la moratoria. Valentina Furlanetto, GR24, Il Sole 24 Ore.